AVS Media Demo. Ci ritroviamo tutti. AVS Media Demo. Ognuno con i suoi problemi, ma i tuoi non sembrano seri. Ci ritroviamo tutti lì a lunedì. Tua moglie AVS Media Demo. Sei proprio sfigato. Ci ritroviamo tutti lì, ma che magnifico il lunedì. Ci ritroviamo tutti lì a lunedì. AVS Media Demo. Ragazzi, chi è quella bionda che veste con quella donna? Ci ritroviamo tutti lì a lunedì, ta-na-na-na-na-na, con gli anni che vanno avanti e non... AVS Media Demo. Ci ritroviamo tutti lì, ma che magnifico il lunedì. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Se n'è già andato lasciandoci. AVS Media Demo. Ci ritroviamo tutti lì a lunedì. Pensiamo alle cose serie, dai, ma quante storie. Ci ritroviamo tutti. AVS Media Demo. Installed.